Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, sì, vedo che già mi scrivono, giustamente l'hanno ricordata anche i nostri GR. Domani i giornalisti del Sole 24 Ore sciopereranno, sciopereranno anche i colleghi della radio, e quindi verranno garantite alcune finestre informative, come sempre in questi casi, ma non i GR e i programmi condotti dai giornalisti della radio, che decideranno di aderire allo sciopero. Per quello che riguarda i temi del resto della giornata economico-finanziaria, segnalo, come già ricordavano i nostri GR, uno spread che, sebbene, lo ricordo perché ogni tanto la memoria è corta, Monti governò con uno spread sopra i 300 punti, quando Berlusconi se ne andò lo spread era sopra i 500 punti, però è innegabile che la differenza tra quanto rende un titolo di Stato italiano e quanto rende un titolo di Stato tedesco, che si usa sempre come benchmark, come raffronto, stia aumentando e sia arrivata a 180 punti, vicina ai 180 punti, poi un po' discesa. Allora, per quello che riguarda il dato definitivo, lo commenteremo durante i mercati finanziari. Tensioni anche sul BTP, ma è ovvio, se aumenta lo spread vuol dire che rende di più il BTP italiano, sempre rispetto all'equivalente del BTP, all'equivalente obbligazionario tedesco. Il trentennale statunitense anche è in aumento, però restiamo un attimo sulla parte italiana. 180 punti di differenza e il decennale che va al 2,2%. Tra l'altro è un tema abbastanza italiano, nel senso che invece l'equivalente del BTP a 10 anni spagnolo, il bonus, resta a 125 punti come spread, e questo è un punto. Poi c'è un aumento generale dei titoli di Stato, anche tedeschi, e anche i treasury americani, i T-bond americani. Il trentennale statunitense ha superato il 3% per la prima volta da gennaio, mentre il rendimento del decennale registra un incremento dei 12 punti base al 2,2%. Ancora in rafforzamento il dollaro sulle principali valute, nel senso che è scambiato nei confronti dell'euro. L'euro è sceso a 1,0716, intravede quota 1,06. I temi di cui ci occuperemo, questo sicuramente, cosa sta succedendo ai titoli di Stato e quindi vendite e attese anche di una ripresa dell'inflazione alla luce degli orientamenti di politica economica della presidenza Trump, ossia l'inflazione di cui ci stiamo occupando è quella statunitense. Se Trump porterà avanti il mix di stimoli fiscali, del regulation, investimenti in infrastrutture, aumentando insomma debito, e aumenterà anche un po' l'inflazione, a quel punto la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse, perché quando sale l'inflazione tu come banca puoi permetterti di aumentare i tassi di interesse. Il motivo per cui tutte le banche centrali hanno mantenuto i tassi di interesse ai minimi storici è la bassissima inflazione. Nel caso europeo, dell'area euro, è un'inflazione allo zero, quindi assolutamente non soddisfacente per la banca centrale europea. E quindi, se ci si attende che aumentino i tassi di interesse, le obbligazioni, i titoli di Stato si muovono di conseguenza. Anche di questo parleremo anche dei dati arrivati a casa nostra, e mi riferisco alla deflazione. Invece l'Istat ha rivisto le stime su ottobre, l'Italia torna in deflazione, -0,2%, anche mese su mese -0,1%. Oggettivamente c'è stato un calo della deflazione, o meglio un aumento della deflazione superiore alle attese. Perché non piace la deflazione? Perché quando i prezzi calano, intanto il significato è che i consumi sono bassi e quindi non portano nessuna pressione sui prezzi. In secondo aspetto c'è una tendenza a questo punto, se tu sai che i prezzi sono in calo, a rinviare qualunque acquisto, e il rischio di un circolo vizioso per cui rinviando gli acquisti i prezzi calano ulteriormente è dietro l'angolo. Ma il terzo aspetto che riguarda noi, lo ricordiamo sempre, come paese che ha un grossissimo debito, a livello mondiale siamo i secondi, quando i prezzi calano, quindi l'opposto dell'inflazione, il tuo debito in termini reali aumenta. Ossia, se io devo 1000 euro a una persona, se ho un'inflazione al 10%, l'anno dopo gli dovrò sempre 1000 euro, ma che varranno il 10% in meno, quindi 900 euro. Se all'opposto la deflazione, mettiamo meno 10% i prezzi, i miei 1000 euro come valore reale l'anno dopo ne valgono 1100, perché è l'esatto opposto dell'inflazione. Ecco perché la deflazione preoccupa. Dopodiché la Banca Centrale Europea ha come obiettivo il 2% di inflazione, né troppo sopra né troppo sotto. Di questo parleremo. È atteso per le 18 invece il vertice europeo, è un vertice più, diciamo, di politica estera, ma vorrei ripartire da qui perché Trump oggi ha detto che vedrà presto il presidente cinese, ha riferito a manifestanti americani, ha detto: protestano perché non mi conosco, ma dico loro di non aver paura. E poi ai suoi ha detto basta attacchi contro neri, ispanici e gay, però ha confermato via 3 milioni di clandestini sia al muro col Messico, questo durante l'intervista. E poi ha annunciato appunto un incontro a breve con il presidente cinese, tra l'altro, e ha detto voglio cooperare anche con loro. Ancora da Teheran il presidente del Parlamento Lariani rompe gli indugi, va controcorrente, ha detto non c'è nessun pregiudizio nei confronti di Trump. Il programma economico di Trump non piace invece a Larry Summers, ex segretario del Tesoro durante l'amministrazione Clinton, ha detto che si basa su degli errori, su idee non plausibili, su un'avventata noncuranza per l'economia globale. Trump poi per quanto non ha parlato dell'Europa, però non ci sono stati ancora contatti tra Trump e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, non sono al corrente di tale conversazione, ha detto il portavoce Margaret Schinas, che poi ha ribadito vogliamo continuare a investire in una relazione forte tra Unione Europea e Stati Uniti che protegga e salvaguardi la relazione transatlantica basata sui nostri valori, principi e interessi comuni. Questo in qualche modo per mettere fine alla polemica, o cercare di ridurre la polemica scatenata da Juncker, dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che ha detto con Trump perderemo 2 anni. Possiamo risentire Juncker della settimana scorsa? Moi je crois que nous aurons 2 années de temps perdu jusqu'à ce que monsieur Trump ait fait le tour du monde qu'il ne connaît pas. E invece, sempre in tema di Europa, vorrei farvi ascoltare anche un altro passaggio in cui Juncker, la polemica l'ha creata appunto dicendo perderemo 2 anni, non conosce il mondo, pensa che il Belgio sia un villaggio da qualche parte del nostro continente. No, volevo ascoltare invece il passaggio di oggi in cui il portavoce, sempre della Commissione Europea, Margrethe Schinas, ha commentato il fatto che la bandiera europea sia scomparsa dall'ufficio di Matteo Renzi, del nostro Presidente del Consiglio, durante un'iniziativa. Ha detto, beh, noi non abbiamo linee guida quanto alle decorazioni degli uffici dei nostri leader. Non abbiamo linee guida sulle decorazioni degli uffici dei nostri capi di Stato. Per quello che ci riguarda, noi restiamo molto fieri al fianco delle nostre bandiere europee. Allora, gli indici, volete sapere delle borse? Non li ho detti: meno 0,50% Milano, più 0,50% Parigi, più 0,30% Francoforte, più 0,40% Londra. Invariato il Dow Jones, euro a quota 1,07 appunto nei confronti del dollaro. Allora, sul notizie di carattere internazionale, non c'è solo il fronte Trump, c'è anche il fronte Brexit. Oggi un rapporto condotto su un migliaio di aziende britanniche e rilanciato oggi dal Times sottolinea come siano stati congelati in Gran Bretagna investimenti per 65 miliardi di sterline. Congelati non vuol dire cancellati, però vuol dire sospesi, nei quasi 5 mesi trascorsi dal referendum pro-Brexit. Ancora, nel sondaggio che ha condotto il Center for Economic and Business Research, metà delle imprese sondate ha sospeso almeno una parte dei progetti di investimento. E un'altra brutta notizia per la Gran Bretagna dopo la Brexit arriva da Citigroup, il gigante bancario americano. Ha intenzione, nel piano messo a punto in vista della Brexit e delle incertezze destinate ad aprirsi per le banche e le istituzioni finanziarie, perché lo spiego a tutti, perché fino adesso dalla City le banche extraeuropee operavano con il quartiere europeo. Adesso la City non sarà più Europa, Unione Europea, e quindi tu, se vuoi operare nell'Unione Europea, devi trovarti un'altra sede. Tant'è che Citigroup, se vuoi operare come filiale, diciamo, dentro l'Unione Europea, e Citigroup sta spostando, ha intenzione di spostare 900 dei suoi 9.000 dipendenti di base in Gran Bretagna, spostarli a Dublino. E anche l'Italia continua a proporre agevolazioni. Addirittura oggi il bonus trasloco per le imprese che dopo la Brexit decideranno di trasferire la propria sede dalla Gran Bretagna all'Italia. È un emendamento alla legge di bilancio presentato oggi dal Presidente della Commissione Finanze Maurizio Bernardo e da Paolo Tancredi, entrambi di AP. L'idea è quella di rendere deducibili fino ad un massimo del 25% i costi di trasferimento, da ripartire su 5 anni con un tetto pari al 3% dell'imponibile. Dicevamo della deflazione, poi ce ne occupiamo. Vedo che molti mi scrivono: beh, ma è un vantaggio se i prezzi sono in calo. Sì, attenzione, il calo della spesa fa meno 0,2% e calano gli alimenti freschi, che vuol dire che oggettivamente pressioni sui consumi non ce ne sono. A settembre era stata nulla la variazione, adesso meno 0,2%. L'insieme dei prezzi degli alimentari, appunto, fanno meno 0,2%. I prezzi degli alimentari non lavorati fanno addirittura meno 0,4% sull'anno, rispetto appunto a un anno fa. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, oggi firma del vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Arriva oggi un brutto dato dell'Istat sull'andamento dei prezzi. Dopo i buoni segnali a settembre di una piccola ripresa dell'inflazione, a ottobre l'Italia ripiomba a tutti gli effetti in deflazione, con un calo dei prezzi al consumo dello 0,2% su base annua e dello 0,1% su base mensile. Questo andamento al ribasso dei prezzi è determinato ancora una volta dal calo dei beni energetici, che segnano un meno 3,6%, ma in effetti i valori negativi si ritrovano, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, anche in altre tipologie di beni e servizi, dagli alimentari non trasformati sino ai servizi ricreativi e culturali, tutti i prezzi con il segno meno. Ecco, perché questo dato sull'andamento dei prezzi è particolarmente brutto? Beh, lo è in generale perché, come sappiamo, una dinamica negativa dei prezzi è un evidente segnale di debolezza dell'economia, si consuma poco, si rinviano gli acquisti e ciò mette in difficoltà le aziende produttrici. C'è poi un aspetto che riguarda nello specifico l'Italia. Gli ultimi mesi hanno indicato un cambio di aspettative a livello mondiale sull'andamento dei prezzi, si tende a parlare di reflazione, cioè ritorno dell'inflazione, e non più di deflazione. Noi sappiamo che uno degli obiettivi della politica monetaria della BCE è quello di portare l'inflazione verso il 2% e che il programma di acquisto di titoli della BCE si fermerà quando questo obiettivo sarà raggiunto. Ecco, per l'Italia sarebbe molto pericoloso restare fuori da questa dinamica, come il dato di oggi tende a dire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo con ordine. Altre notizie che riguardano l'Italia le do prima di passare al primo tema, che riguarda appunto i prezzi al consumo, l'andamento dei consumi. Dunque, la pubblicità, la Nielsen oggi fotografa un andamento nei primi 9 mesi più 2,5%, il 2016 si appresta a chiudere in saldo positivo. Relativamente ai singoli mezzi, la TV rallenta, cresce dell'1,2%, la stampa sempre segno negativo, e quindi quotidiani meno 10 e meno 5 i periodici. La radio riduce la sua raccolta a causa di un settembre negativo, la radio complessivamente data meno 4,6%, nel periodo gennaio-settembre più 0,6%, resta comunque in territorio positivo, ma da gennaio a settembre a questo punto è solo dello 0,6%. Mi chiedete molto della borsa, ne parleremo a mercati chiusi, perché è spuntata il Monte dei Paschi guadagna l'11,27%, è spuntata questa ipotesi che riguarderebbe di nuovo il mondo bancario, addirittura forse Società Generale nel futuro di Unicredit, però parliamo a mercati chiusi, quindi tra pochissimi minuti. Allora, primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms, dato sulla deflazione e andamento dei consumi, perché ripeto, esiste anche una deflazione buona, o meglio, una non inflazione buona, è quando tu consumi, però crollano i prezzi dell'energia, quindi non hai inflazione importata. Così come esiste un'inflazione particolarmente brutta quando tu non consumi di più, che è il peggiore degli scenari, però i prezzi salgono perché aumenta il prezzo del petrolio e quindi tu non hai un aumento dei consumi, quindi anche un aumento della propensione al consumo dei salari, ma i prezzi che comunque salgono perché salgono tutti i prezzi dei generi importati, trasportati con la benzina, e sale il prezzo del petrolio e tutte le materie plastiche. In questo momento quello che noi vediamo è che se è tornata la deflazione in maniera anche abbastanza netta, meno 0,2%, non è dovuto a un crollo repentino dei prezzi del petrolio, ma proprio a un calo dei consumi alimentari, alimentari non lavorati, alimentari generici, meno 0,4 non lavorati, meno 0,2 gli alimentari invece lavorati, incluse le bevande alcoliche. Poi la lista è lunga, Milano è la prima città per deflazione ad ottobre, meno 1,8%, 14 grandi centri urbani su 29 sono comunque in deflazione, segue Potenza dopo Milano meno 0,6, Torino ancora, Roma e Palermo meno 0,3, Genova meno 0,1, i maggiori aumenti dei prezzi invece si registrano a Napoli e Bolzano più 0,5, l'aumento minore a Firenze più 0,1, mentre Perugia e Catanzaro i prezzi sono fermi. Interessante che tra i comuni con più di 150.000 abitanti, ma non capoluoghi di regione, la diminuzione dei prezzi più forte si è avuta a Ravenna, meno 0,6, poi Brescia, Modena, Reggio Calabria, Messina, meno 0,1, e l'aumento maggiore a Livorno, più 0,8%. Mariano Bella, capo del centro studi di Confcommercio, buonasera, direttore. Buonasera. C'è qualcosa che non la convince nel mio ragionamento, in primo luogo, e cioè questa è una deflazione vera e propria, perché non abbiamo non è il calo dei prezzi energetici, ma proprio dei prezzi che voi esprimete, insomma, con il mondo del commercio e quindi in primo luogo alimentari. Bella. Mi convince, perché è esattamente il ragionamento che si deve fare. E io, a beneficio degli ascoltatori, vorrei citare qualche numero in rapida sequenza per fare capire la differenza tra una situazione di normalizzazione e una situazione, purtroppo quella italiana, che continua a rimanere troppo debole, patologica. Guardiamo le variazioni tendenziali degli ultimi 5 mesi, giugno-ottobre, della Germania, 0,2, 0,4, 0,3, 0,5, 0,7. Guardiamo quelli della Francia, 0,1, 0,3, 0,4, 0,4, 0,5. Guardiamo quelli dell'Italia, meno 0,2, meno 0,2, meno 0,1, 0,1, meno 0,1. Cioè, mentre gli altri paesi stanno tornando lentamente a una situazione di normalità, cioè un'inflazione attorno all'1% che nel giro di 2 anni dovrebbe diventare 2%, Noi che ci eravamo illusi, diciamo in estate, su una ripresa moderata dei prezzi, invece siamo stati smentiti perché ottobre è una nuova deflazione. E purtroppo è una deflazione, come diceva lei, che non deriva da fattori esterni, cioè non è una deflazione buona, ma abbiamo tutti i beni e tutti i servizi, o quasi tutti i beni, quasi tutti i servizi, che mostrano segnali negativi. E questo va perfettamente d'accordo con il quadro complessivo degli indicatori congiunturali. Cioè, noi da 2 anni in Italia non riusciamo ad avere un mese uno con 2-3 indicatori che vadano d'accordo, cioè una volta sale l'occupazione, ma al contempo scende la produzione. Il mese dopo i consumi, cioè per esempio secondo le vendite al dettaglio dell'Istat, crescono, mentre l'inflazione scende. Un mese sale la fiducia e nello stesso mese quella per esempio delle imprese rispetto a quella delle famiglie scende, il che vuol dire che noi fatichiamo a consolidare una ripresa che manca davvero da troppo tempo. Ci sono dei segnali positivi, qualche segnale positivo c'è, per esempio la produzione industriale, insomma nell'ultimo trimestre, diciamo nel terzo trimestre, ha comunque fatto segnare una crescita. I consumi sono decrescenti, ma le auto, i trasporti aerei, la bigliettazione autostradale vanno bene. E che la ripresa non si consolida e quindi viene, come dire, smentita o affermata di mese in mese. Certamente questo è uno scenario del quale non ci possiamo accontentare, che desta qualche preoccupazione in chiave 2017. Allora, resti con noi, Bella, perché poi vorrei capire anche nel dettaglio, hai ricordato molto bene come da noi quello che manchi è, diciamo, un insieme di dati tutti positivi, almeno per un periodo breve, ma almeno tutti positivi. Facciamo tempo ad avere una cosa e poi cara l'altra. Però qui qualcuno mi scrive se può esserci anche un'incidenza del commercio online che non fa risultare molti consumi nella mancata inflazione, ma ne risulta? No, perché comunque da un punto di vista teorico, adesso mi dia la sua spiegazione, se io anche acquistassi il prodotto X o moltissimi acquistassero il prodotto X online, poi a un certo momento questo prezzo dovrebbe avere qualche tensione e risalire, o no, Bella? Certo, certamente. D'altra parte le filiere produttive, al di là dell'esito finale, cioè della formula, del formato finale che esita al consumatore, sono impattate dalle variabili internazionali e dalle variabili interne come tutte le altre filiere. Questo, da questo punto di vista è illusorio pensare che il mutamento della distribuzione abbia degli impatti che non vengono colti. Vengono colti e si vede, cioè si vedono tutto sommato nei dati. Cioè, il commercio elettronico lo seguiamo, su 20 miliardi è una cosa piccola ma già in crescita, sì. è comunque rilevante. Quanto vale il 3% più o meno? Ecco, se lo facciamo sui consumi totali siamo intorno al 2%, ma se lo facciamo sui consumi eleggibili, cioè quelli che veramente possono passare online, dai canali online, siamo in alcuni casi siamo al 20-25%, penso alla bigliettazione o ai viaggi, mediamente intorno al 10%, questo lo dice il Politecnico di Milano, che fa un'ottima analisi. Allora, adesso lascio un attimo la linea al metro pubblicità. Una cosa la devo chiarire, io non ho detto che l'inflazione sia la deflazione sia sbagliata, ho detto solo che la deflazione è positiva quando, nonostante un aumento dei consumi per un insieme per maggiore concorrenza o perché i prezzi del petrolio continuano a calare, tu paghi meno. Il punto è che questo tipo di calo dei prezzi al consumo, che dà un vantaggio ovviamente in chi deve fare un acquisto, e abbiamo altre volte ricordato come dia anche un potere di recupero sul potere d'acquisto, perché intanto non va a intaccare i salari a reddito fisso e leggermente, attenzione che non è che almeno 0,2 si riesca a recuperare tanto, però leggermente permette di recuperare qualcosa. No, quello che preoccupa, al di là degli altri effetti collaterali sul debito, sul rinvio degli acquisti, è che è una deflazione tutta dovuta a una scarsa e bassa propensione al consumo. Questo è il segnale preoccupante, cioè se si scarica tutta sui generi alimentari. Faccio un esempio. Noi abbiamo visto che l'elettronica da consumo in questi 15 anni ha avuto una sua deflazione bella, perché i prezzi a parità di telefonino, di computer, calavano, ma quella era una cosa positiva, cioè la concorrenza, la tecnologia rende meno caro un prodotto che costava di più 3 anni fa, a parità di prodotto, cioè a parità di memoria e di processi operativi. In questo caso stanno calando i prezzi di generi di consumo alimentari, non lavorati, alimentari lavorati, non perché diciamo vi sia una concorrenza a questi prezzi, ma perché la gente compra o li compra meno o rimanda l'acquisto. Ho capito bene, Bella, su questo, cioè, bisogna capire perché arriva la deflazione, prego. La deflazione arriva esattamente per quello che sta ricordando lei, cioè quando le imprese non sentono alcuna tensione dal lato della domanda, come testimonia per esempio l'ICC di settembre che fa segnare meno 0,1, non sono invogliate a investire e si aspettano prezzi tutto sommato decrescenti. Questo alla fine, che sarebbe la teoria della deflazione brutta, si riflette sui salari. Cioè, se tutti i prezzi dei beni diminuiscono, a un certo punto diminuiranno anche i salari, se questo è dovuto non a guadagni di produttività o a una maggiore concorrenza. E se dentro le persone si instaura l'idea che in un futuro prossimo i prezzi saranno ancora inferiori, se dentro le imprese c'è l'idea che i beni di investimento costeranno di meno, si aspetterà a fare qualsiasi tipo di acquisto e i prezzi continueranno a calare. Ma questo porterà a un equilibrio alla fine di sottoccupazione, perché espellerò manodopera, ridurrò gli investimenti in conto capitale proprio perché mi aspetto una situazione cattiva. D'altra parte, se guardiamo gli indici di fiducia delle imprese e delle famiglie, quello delle famiglie è in fortissima riduzione, quello delle imprese è in discreta riduzione, al di là di qualche oscillazione mensile. Mettendo insieme queste informazioni viene fuori un quadro poco rassicurante, al di là del fatto che permangono dei segnali sporadici, accidentali, positivi, ma è l'insieme che non convince. Allora, Bella, io la saluto a questo punto, che questa era la domanda che volevo fare dopo, gliel'ho anticipata prima del meteo. Grazie anche al direttore del Centro Studi di Confindustria e buonanotte di Confcommercio, no, non voglio confonderla con Luca Paolazzi, massimo rispetto per ambedue, direttore del Centro Studi di Confcommercio Mariano Bella. Qualcuno mi scrive: lei scopre che la nostra crisi è crisi di domanda. No, guardi, qualunque critica oggi, poi non è neanche una bella giornata, vabbè. Però dico, lo stiamo dicendo da 5 anni che mancano i consumi interni, che quel poco di ripresa che si è avuta in Italia si è avuto solo grazie all'export e alla capacità delle nostre imprese di riqualificare i prodotti, di riposizionarsi sulla fascia alta, ma sui mercati esteri, che quello che manca, anche se qualche segnale l'anno scorso era arrivato, sono i consumi interni. Tutto accetto, ma dire che lo scopriamo adesso no. Grazie Bella, meteo e pubblicità. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso ci occupiamo della borsa e di quello che sta, l'altro tema di oggi, della giornata economico-finanziaria, quello che sta capitando ad alcune banche. Oggi spicca soprattutto il Monte dei Paschi, più 11,40%, Milano chiuso in negativo, meno 0,75%, Parigi più 0,43%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,40%, Dow Jones invariato. A chi mi scrive al 349-238-6666, forse ha perso l'inizio del programma. Dopo le 18 parleremo invece di quello che sta capitando sui titoli di Stato italiani, spread in aumento e tensioni in generale. Allora, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Milano peggio di altre borse per via non tanto dei bancari questa volta, ma di Terna meno 3,70, Italgas meno 3,60 come Saipem, Atlantia meno 2,80, Fiat meno 2,80, Telecom meno 2,5, Snam meno 2,40, Eni meno 2,30, Brembo meno 2 come A2A e Recordati UbiBanca. Allora, da questo punto di vista partiamo dagli altri, poi chiudiamo sulle banche. Tutto il settore energetico, e in particolar modo poi abbiamo visto anche Eni, oggi è debole. Da questo punto di vista è chiaro, il petrolio ha continuato a cedere un altro punto, 1,2% sotto i $43 al barile. Guido. Sì, allora abbiamo un discorso che ormai abbiamo visto da alcune sedute che riguarda le utility, che in questo momento sono molto vendute dagli operatori perché sono penalizzate dalle prospettive di un rialzo dei tassi e di un aumento dell'inflazione che per queste società che hanno dei flussi regolati eccetera potrebbero avere degli impatti negativi. Come dicevi tu, c'è poi la questione del prezzo del petrolio, che si unisce anche al rafforzamento del dollaro, che va a penalizzare tutti gli energetici più tradizionali come può essere ad esempio Eni. E poi ci sono anche in qualche modo alcune storie, alcune prospettive scommesse sui conti dei 9 mesi che devono arrivare, che in questo caso è il caso di Snam, che domani darà i conti e che oggi ha ceduto il 2,41%. Allora, questo per quello che riguarda invece la parte, diciamo, non bancaria. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche l'economista, il professor Donato Masciandaro, che insegna la Bocconi Politiche Monetarie, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Masciandaro. Buonasera. Arrivo con lei tra un minuto sul tema bancario, le voci che stanno circolando, però prima affronto la cronaca con Guido Maurino. Monte dei Paschi più 11,40, anche se la notizia più forte di oggi riguardava UniCredit, che è sostanzialmente ferma. Sì, alla fine UniCredit, dopo aver brillato nel corso della giornata, ha chiuso invariata allo stesso prezzo di venerdì. Su UniCredit si continua a discutere sull'entità dell'aumento di capitale. Nel fine settimana alcune indiscrezioni di stampa parlavano di 11-12 miliardi di euro. Poi è uscito oggi il Wall Street Journal che parla di 13 miliardi di euro, si tratta comunque di cifre importanti e in qualche modo già uscite nei giorni scorsi. La novità vera in qualche modo potrebbe essere questa indiscrezione che è rimbalzata su un interesse per una eventuale fusione fra UniCredit e Societe Generale, un'indiscrezione che non è stata commentata come ovvio che sia, ma che per un buona parte della giornata ha un po' guidato gli scambi. Per quello che riguarda invece il Monte dei Paschi, che ho già chiuso in rialzo di oltre l'11%, c'è un CDA che è ancora in corso e in cui l'amministratore delegato Morelli deve fare un po' il punto sul roadshow che sta facendo per cercare capitali per l'istituto senese. Ci sono altre cose, diciamo, più piccole come la possibile cessione della piattaforma sui crediti deteriorati, anche qui potrebbero esserci delle novità dal CDA di oggi. CDA è ancora in corso, si aspetta di capire qualche novità appena sarà terminato. Allora, visto che parliamo di borsa, cito anche Sole 24 Ore, quotato non tanto per il valore di borsa più 2,33% oggi, quanto per quello che è uscito dall'assemblea degli azionisti che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione indicato dall'azionista di maggioranza Confindustria. Il presidente del Sole 24 Ore è l'ex presidente degli industriali Giorgio Fossa, e poi confermate anche le indiscrezioni sulla presenza nel CDA di Luigi Abete, di Francesca Di Girolamo, e poi Edoardo Garrone, Luigi Gubitosi, Giuseppina Negano, Patrizia Micucci, Marcella Panucci, Carlo Robiglio, Livia Salvini, Massimo Tononi. Si va, da quello che batte un'agenzia, verso la nomina di Franco Moscetti, ex amministratore delegato di Amplifon, come nuovo amministratore delegato. Domani vi sarà un board che dovrebbe cooptare Moscetti, nella giornata di domani. La Confindustria ha detto che valuterà anche le eventuali azioni di responsabilità, sono in corso accertamenti sia amministrativi sia penali, saranno valutate le azioni di responsabilità. Per quello che riguarda il nuovo piano industriale del gruppo Sole 24 Ore 2016-2020, approvato il 3 novembre scorso, in sostituzione del piano disatteso 2015-2019, prevede il raggiungimento di un utile nel 2019. Confermo anche chi me lo scrive che i giornalisti del quotidiano saranno in sciopero domani, cioè domani giornale non esce, quindi lo sciopero viene fatto oggi, e lo sciopero riguarderà anche i giornalisti della radio nella giornata di domani, quindi saranno garantite le finestre informative, come è già avvenuto in questi casi negli anni scorsi, delle 8, delle 13, delle 19, e questo varrà anche per i giornalisti della radio, non i collaboratori, che conducono i programmi se decidono di aderire allo sciopero. Ma Maciandaro, un attimo ancora di pazienza, grazie intanto a Guido Maurino. Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, vedo che molti mi chiedono, ma lei sarà in diretta, qui c'è una nota un po' tecnica, però io non sono parte dell'assemblea dei giornalisti, perché faccio il vice direttore esecutivo e i vice direttori non sono parte dell'assemblea dei giornalisti, quindi non posso aderire a uno sciopero decretato da un'assemblea di cui non faccio parte, e quindi il programma sarà regolarmente in onda, come saranno regolarmente in onda i programmi condotti da collaboratori di Radio 24. L'assemblea dei giornalisti infatti decreta lo sciopero per i dipendenti, i giornalisti, articolo 1 di questa redazione, come vale in generale, per cui quello che tra l'altro è sempre accaduto. Detto ciò, poi un giornalista, parte dell'assemblea, è libero se aderire o no allo sciopero, quindi magari altri conduttori, pur giornalisti e parte dell'assemblea dei giornalisti della 24, decideranno di andare regolarmente in onda. È assolutamente una decisione individuale, ma io non posso farlo. Allora, professor Maciandaro, vabbè, non so dire se è meglio la giornata del Monte dei Paschi o la mia oggi. Comunque, che cosa sta capitando non tanto sul Monte dei Paschi quanto al mondo bancario? Perché questi giorni, settimane, tra Trump, spread e quant'altro, ci siamo un po' tra virgolette distratti. Oggi è riapparsa l'ipotesi di Société Générale UniCredit, ma è tutto fermo fino al 4, oppure in realtà da quello che lei capisce si sta muovendo senza far notizie? Beh, ci sembra di capire che essendo il consolidamento auspicato da tutte le autorità di vigilanza, essendoci anche dei prezzi particolarmente convenienti in giro per l'Europa, direi che possiamo immaginare che prima del 4 comunque chi deve provare a disegnare operazioni si sta muovendo. Sarebbe sciocco il contrario. E quindi senza far notizie, diciamo, con formalmente tutto verrà deciso dopo il referendum del 4, mi riferisco a Monte dei Paschi che l'ha dichiarato, ma anche a UniCredit, se ho ben capito, però lei dice i prezzi sono interessanti. Lei vede un rischio, adesso a me la parola colonizzazione non è mai piaciuta e la ritengo anche sbagliata, ma vede un rischio acquisizione dall'estero? La situazione, io non vedo rischi, tra virgolette, di colonizzazione. Quello che mi fa più paura è il continuo disco rotto sul rischio sistemico del sistema bancario. Da questo punto di vista si può citare il Financial Times, scrive lo stesso articolo da un anno e ogni volta che parla dell'Europa, uno dei problemi dell'Europa è lo stato delle banche italiane, ma santo cielo, è cambiata la situazione da un anno all'altro, le sofferenze nette sono al 4%, il flusso è al 3%, che è il flusso prima del 2008, francamente non si comprende, cioè per capire quello che sta succedendo forse è meglio non leggere il Financial Times. Ma questo non potrebbe essere, insomma, a pensare male si fa peccato, diceva Andreotti, ma delle volte ci si azzecca, non potrebbe essere anche un interesse continuare a tenere sotto pressione il sistema bancario italiano? Io non credo a spettre, credo che c'è un mercato affamato di notizie, perché c'è tanta liquidità, forse oramai troppa, e qualcuno le notizie gliele deve dare, che siete voi, e quindi bisogna dare delle notizie, e i mercati non lavorano più con l'idea. Non c'è più rapporto con i fondamentali, si tratta di lavorare da un secondo all'altro, quindi in questo contesto qualunque notizia va bene, anche un disco rotto, che ogni volta si parla di incertezza, adesso sì. L'incertezza è il dopo Trump, beh, di che cosa parliamo? Ma parliamo delle banche italiane, è verosimile, ecco. Allora, io sono d'accordo con lei, c'è anche un po', non dico di pressapochismo, ma forse di stereotipo nella stampa anglosassone su questo, che però insomma, qualcosa si stia muovendo, i colloqui possono essere anche ovvi, no? È innegabile, così come era difficile immaginare che tutto il mondo della finanza e delle banche si fermasse da qua al 4 dicembre, io l'ho detto in maniera non sospetta su questo. Comunque, dai. Grazie anche a Donato Masciandaro, andiamo su GR24 e poi invece parliamo di titoli di Stato, spread, BTP e tensioni che partono però anche dagli Stati Uniti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso occupiamoci dell'altro tema che riguarda i mercati. Non vi ho dato però i migliori e peggiori, chiedo scusa. Allora, Brioschi più 15,30, Monte dei Paschi dicevamo più 11,40, Elettra Investimenti più 6,6 come Commerzbank e Salini in pregiudizio, Bastoggi più 5,5. Fronte opposto, Poligrafici Printing meno 7, Banzai meno 6, Acotel meno 5,80, D'Amico meno 5,60%, Elica meno 5,50%. Allora, titoli di Stato. Prima di tutto ascoltiamo però Mario Draghi, che oggi è intervenuto sulla stabilità essenziale per le buone riforme, dopo che tra l'altro il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vittorio Constâncio, a margine della conferenza a Francoforte, ha detto non vedo nessun motivo per reagire al rialzo degli spread, spiegando che fa parte di un contagio proveniente dagli Stati Uniti. Draghi sulla stabilità essenziale per fare riforme ben disegnate. Ministro Ciampi consolida e sviluppa quanto fatto in precedenza, con un'azione di governo straordinariamente incisiva che avrebbe cambiato il Paese per sempre. Viene da riflettere sui fattori che hanno reso possibile al governo Prodi e in particolare al ministro Ciampi questa determinazione unita a una prospettiva di medio-lungo termine nell'azione di politica economica. La libertà dall'emergenza, grazie all'azione dei governi precedenti di cui si è detto, è la prima ragione che viene in mente. La stabilità è essenziale per fare riforme ben disegnate. La seconda è la durata del governo, circa 2 anni, più lunga di quella dei 4 esecutivi precedenti, che non durarono nella pienezza delle funzioni per più di 1 anno. E queste parole Draghi le ha pronunciate ricordando l'operato di governo del presidente emerito Carlo Zero Ciampi nel corso della giornata in sua memoria. Come avete sentito, c'era un riferimento proprio a Ciampi, organizzata oggi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma veniamo alla parte delle tensioni che ricordava anche la BCE sui titoli di Stato. Arrivano dagli Stati Uniti, qual è il ragionamento? Se Trump farà quello che ha promesso e quindi piano di investimenti e soprattutto mix di stimoli fiscali, di regulation, investimenti infrastrutturali, dovrebbe anche generare un aumento dell'inflazione. Se aumenta l'inflazione, a questo punto la Federal Reserve potrà aumentare a maggior ragione i tassi di interesse. Ecco perché nel frattempo si rafforza anche il dollaro, perché quando il tasso di interesse si chiama anche costo del denaro, più costa il denaro più conveniente comprare quella valuta, questo vale sempre. E allora se uno ipotizza che aumentino i tassi di interesse negli Stati Uniti e renda di più avere dollari, compra dollari e vende euro, infatti l'euro è sceso a 1,072 vicino a quota 1,06. Sono aumentati anche i rendimenti dei trentennali statunitensi, per la prima volta hanno superato il 3% da gennaio, il decennale statunitense BTP, cioè il Treasury Bond a 10 anni, registra un incremento di 12 punti e al 2,2%, il trentennale tedesco, il Bund a 30 anni, supera per la prima volta l'1%. In questo scenario globale si è allargato comunque lo spread italiano, quindi nonostante sia aumentato il rendimento del Bund, il nostro è salito comunque, la differenza tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quanto rende il Bund a 10 anni, e adesso siamo a 180 punti base, il BTP a 10 anni italiano rende il 2,2%, faccio notare che i bonus spagnoli equivalenti restano sotto a 125 punti, quindi è anche aumentata la differenza tra noi e la Spagna, quindi il rischio percepito tra noi e la Spagna. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato Claudia Segre, che è presidente della Global Thinking Foundation e segretario generale di Assium Forex. Buonasera, dottoressa. Buonasera. E grazie anche a Mario Seminerio, che alcuni di voi sono abituati ad ascoltare il sabato mattina con Oscar Giannino su Radio 24, economista e autore del blog fastidio.net. Buonasera anche a lei, Seminerio. Buonasera. Allora, dottoressa Segre, quello che abbiamo capito, abbiamo cercato di raccontare, corrisponde alle tensioni e ai movimenti che voi vedete, e in aggiunta le chiederei però anche un approfondimento sulla parte italiana, perché tutti salgono ma noi saliamo più degli altri. Ma allora, noi in questo momento siamo veramente oggetto di un'attenzione particolare data la tornata elettorale imminente e soprattutto un prevalere di un esito negativo del referendum che metterebbe a rischio la stabilità del governo citata prima nel discorso di Draghi. Logicamente questo ha fatto sì che lo spread si è allargato rispetto alla Spagna da 44 a oltre 60 basis point, al di là del fatto che tutti i periferici europei abbiano allargato di circa 25 basis point. Ma in particolare sull'Italia, punti base. Mi scusi, sì, esatto. Il discorso è che però purtroppo nel caso dell'Italia particolarmente le vendite da parte degli esteri, e oggi abbiamo visto un certo momento proprio quello che si chiama il parco buoi muoversi nel vendere in maniera massiva i BTP, fa capire la preoccupazione che c'è legata a un downgrading dell'Italia che potrebbe arrivare imminentemente subito dopo l'esito del referendum. Quindi, se ho ben capito, c'è una tensione complessiva in cui aumentano i rendimenti complessivamente dati. Poi c'è un caso specifico dell'Italia in cui si somma anche l'incertezza politica sull'esito del referendum del 4 dicembre e quindi si va a vendere un po' di più Italia, ho capito bene? Ma sì, siamo in quella che lei ha citato prima, siamo nella piena era della Trump inflation. Della Trump inflation? Esatto, quindi sono cambiati tutti i parametri e anche per quanto riguarda gli investimenti obbligazionari c'è stata una correzione evidente e allargata e non può essere che così, visto che le scelte di investimento in vista di un cambiamento della politica americana domestica e quindi di politica interna ed economica stanno influendo pesantemente sull'Europa. Allora, sì, qualcuno mi chiede, ma chi? Seminerio, quel neoliberista dei conti della belva? Sì, noi abbiamo tutti come ospiti, come economisti, neoliberisti, neo-keynesiani, tardo-keynesiani, tardo-liberisti, quel che volete voi. Allora, per quello che riguarda il terrorismo finanziario legato al referendum, ho già detto in più occasioni che secondo me è sbagliato legare all'esito politico, l'andamento dell'economia, così. Detto questo, perché mi sembra un errore, era un errore anche nel caso di Trump, nel caso... Detto questo, quello che noi stiamo raccontando è quello che sta capitando, non quello che potrebbe capitare, cioè stiamo facendo la cronaca. C'è uno spread italiano che ha superato, adesso vado a memoria, un mese fa almeno quello spagnolo, nonostante la Spagna non avesse ancora un governo e quant'altro. La motivazione si chiama incertezza politica sull'esito del referendum. Questo differenziale è continuato leggermente a aumentare, lo spread a 180, ricordo a tutti, è di molto inferiore, quasi la metà, anzi la metà di quello che dovete gestire Mario Monti e prima di lui Berlusconi a 500 punti, quindi non stiamo parlando di uno spread drammatico. Il fatto che noi si commenti questo è perché il dato di fatto, cioè si va a vendere un po' di più rispetto alla media, BTP, bot, in questo caso BTP oggi, italiani, perché c'è un'incertezza ulteriore sull'Italia relativa al referendum. Non stiamo dicendo che crollerà il mondo, stiamo solo dicendo quello che sta capitando sui mercati finanziari. Seminerio, su questo, insomma, torniamo un attimo alle motivazioni internazionali. Tutti scommettono che Trump creerà inflazione, dai. E questa è l'idea di fondo, del resto... la promessa di robusti tagli di imposta e di maggiori spese infrastrutturali va in quella direzione, per cui sì, creerà più inflazione, almeno in astratto, dopodiché sui mercati è chiaro che si muovono delle quantità di denaro impressionanti, quindi con un'economia statunitense che è al pieno impiego, se aggiungiamo un ulteriore stimolo fiscale, l'effetto da attendersi chiaramente un aumento delle aspettative inflazionistiche e probabilmente una Fed più aggressiva che inizia a tagliare di più. Però, no, a aumentare di più. Sì, pardon, ad aumentare di più, però il punto è che chiaramente, visto che nessuno di noi vive in una bolla e nessuno di noi è una monade, la pressione al rialzo dei rendimenti americani si riverbera anche in Europa, perché noi abbiamo dei rendimenti ai minimi storici di tutti i tempi. Attenzione però, si riverbera anche in Europa per quale motivo? Perché non è che, diciamo, sì, la crescita americana aggiuntiva potrà darci un quid in più di crescita, poi bisogna vedere come e perché, soprattutto se Trump deciderà di tenersi quella crescita in casa, visto che non mi pare esattamente un libero scambista. Quindi i mercati sono già in un mood di vendere l'obbligazionario, i rendimenti si alzano. Si alzano i rendimenti e chi viene colpito maggiormente? L'Italia, ma non solo e non tanto per questa attesa del giudizio universale, che personalmente credo che non lo sarà del 4 dicembre, ma perché l'Italia, guarda caso, è ancora in deflazione, a differenza di altri paesi europei. Quindi un rialzo dei rendimenti nominali in un contesto che per noi è ancora deflazionistico vuol dire che i rendimenti reali, che poi sono quello che conta per l'economia di un paese, da noi stanno crescendo inopinatamente e si comincia a soffrire. Questo è il punto. Siccome l'Italia ha delle fragilità strutturali, che ogni volta che c'è una turbolenza globale l'Italia è la prima a soffrire e a risentirne, ecco perché noi stiamo soffrendo di più. Questo non vuol dire che io neghi la presenza di una componente di spread aggiuntivo che è causata dall'incertezza sull'esito del referendum. No, questo no. Dico però che non è l'unica determinante, certo. Probabilmente non è neppure quella principale, più rilevante, non è neppure quella principale. La verità è che noi abbiamo rendimenti reali in aumento e chi va a soffrire in un quadro del genere rischiano di essere le banche, al di là dell'entusiasmo contingente. Allora, io capisco tutto, però perché mi scrive come mai non perdete occasione di ribadire con tutti i vostri esperti che parlano al telefono che succederà un cataclisma se vince? No. A me sembra che abbiamo detto l'esatto contrario, cioè abbiamo detto che A è sbagliato continuare a legare variabili economiche a breve su un esito elettorale come quello del referendum costituzionale, poi sul medio e lungo termine non può fare un ragionamento, ma attenzione, e può essere anche controproducente, lo dico ai sostenitori del sì. Due, stiamo dicendo che da questo punto di vista è vero che c'è una variabile politica, lo dicono gli analisti, non lo stiamo dicendo noi, per cui l'incertezza sull'Italia pesa un po', ma soprattutto, visto che nella prima parte del programma abbiamo commentato la deflazione che è tornata ad ottobre, -0,2 in maniera anche netta sui generi alimentari lavorati e non lavorati, se tu hai una tensione sui tassi di interesse in uno Stato che mantiene una sua deflazione, beh, hai un brutto combinato disposto, si può dire così. Questo stiamo cercando di far capire e mi sembra che sull'esito del referendum ci limitiamo alla cronaca di quello che vediamo. Comunque, restate con noi perché ho le informazioni sul traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Dottoressa Segre, quanto c'è di speculazione, parlo a livello internazionale, quindi partendo dai titoli di Stato americani, e quanto c'è di concreto? Perché le faccio questa domanda? Perché ho capito il ragionamento su Trump, però deve ancora fare la squadra di governo, ha iniziato con le prime caselle. Dobbiamo ancora capire chi sarà il segretario del Tesoro e quindi che formazione avrà, se verrà da Wall Street come ex Goldman Sachs o addirittura Jamie Dimon come numero uno di JP Morgan, o se avrà un altro profilo. Non è un po' presto per iniziare a speculare su un elemento di inflazione dovuto a tutti gli stimoli che darà Trump e che quindi, come ricordava lei, anche Seminario, in un paese come gli Stati Uniti con l'occupazione buona, più che buona, creerà tensioni sui prezzi, quindi maggiore maggiori acquisti, maggiore potere d'acquisto, tensione sui prezzi e poi inflazione. Non è un po' presto? E di conseguenza Federal Reserve che va a aumentare i tassi più di quanto non avesse indicato in questi mesi. Non è un po' presto? Ma senz'altro, il mercato tende sempre però ad anticipare le notizie, ad anticipare sulla base di o qualsiasi tipo di dichiarazione che venga fatta, quindi di fatto si sta già lavorando sulle ipotesi post insediamento, quindi al di là del 20 gennaio, e questo non fa altro che alimentare una volatilità, una speculazione che sicuramente è circa il 40% dei volumi in questo momento. Seminerio, allora, va bene, l'anticipazione sui mercati, però detto questo, che cosa, e qui vengo alla parte invece più area euro e italiana, noi come BCE tutto faremo tranne che aumentare i tassi di interesse, perché non abbiamo le condizioni americane, siamo in deflazione o in inflazione pari a zero, e le prospettive di crescita sono molto molto deboli, non abbiamo i dati dell'occupazione che ha, perlomeno tranne forse la Germania, i dati dell'occupazione che si registrano negli Stati Uniti, quindi la BCE non aumenterà i tassi di interesse. A questo punto che cosa rischia l'area euro, poi vengo all'Italia, di trovarsi un po' il vaso di coccio di una dinamica e una tendenza mondiale? Ma sì, di trovarsi in condizioni di debolezza, eventualmente di beneficiare di questo impulso espansivo globale americano nella misura in cui Trump, ripeto, non attuerà misure protezionistiche. Mm. Però il problema... Il problema italiano, non so se posso, diciamo, già, il problema italiano è uno solo, la crescita, ma non la crescita intesa come gli 0, le regole europee, l'output gap, eccetera, no, la crescita come elemento che noi leggiamo nel rapporto debito-PIL, perché il rapporto debito-PIL è il punto di partenza e di arrivo di tutte le valutazioni sulla qualità della crescita di un paese. Se il nostro rapporto debito-PIL in una fase espansiva globale ed europea non si riduce, vuol dire che la nostra crescita è semplicemente insufficiente e vuol dire che noi stiamo aumentando il nostro rischio di insostenibilità del debito. Per cui, a prescindere da quello che succede il 4 dicembre e comunque a partire dal 5 dicembre, l'Italia continuerà ad avere la sua missione, che è quella di fare riforme per la crescita. Fino ad ora non è che le cose siano andate in questa direzione, perché abbiamo previsioni di calo del debito PIL che ogni anno vengono sistematicamente gettate nel cestino. Questo è il dato su cui concentrarsi e che io continuo a stressare per capire come sta andando l'economia italiana e dove sta andando soprattutto. Lei teme che vi possa essere di nuovo, diciamo, anche dopo il 5, un'ondata in questo caso speculativa, cioè ci sono flussi di capitale che non sanno dove andare, uno può essere così allettato, diciamo, usiamo questo termine, nel speculare contro l'Italia? Sì, è possibilissimo, cioè l'Italia è oramai in maniera conclamata il vaso di coccio tra altri vasi di coccio, un po' meno di coccio di noi, che sarebbe l'Unione Europea, per cui sì. Se diciamo, dopo il 4 dicembre, facciamola molto breve, vince il sì, benissimo, probabilmente ci sarà il cosiddetto relief rally, il sollievo che determinerà un miglioramento dei prezzi delle attività finanziarie italiane, da quel punto in avanti però bisognerà agire. Se vince il no, molto dipenderà dal tipo di instabilità. Non dimentichiamo una cosa, dal 5 dicembre ci manca un anno e mezzo alla chiusura della legislatura, ed è una legislatura che esattamente tra un anno avrà clausole di salvaguardia riportate in avanti per altri 20 miliardi. Quindi, come anticipano i mercati, così sto anticipando io, ma qualunque persona dotata di un minimo di senso comune dovrebbe rendersi conto che il 2017 sarà un anno estremamente impegnativo, a prescindere dall'esito referendario. Questa cosa non la stresserò mai abbastanza. No, fa bene, perché sennò passa il messaggio che tutto dipende, non è, il referendum può avere un effetto, nessuno sta negando, ma poi il tema del rapporto debito-PIL ci resta addosso, che vincano i sì o che vincano i no. Il tema della debolezza italiana con questo debito che non riesce, diciamo, a ridurre nel suo rapporto col PIL, perché non cresce abbastanza il PIL, ci resta addosso. Segre, in una battuta, perché sono in chiusura, d'accordo sul fatto che noi comunque in un mondo, diciamo, più speculativo su questo, con un'Europa e un'area euro che va a subire un rialzo dei rendimenti, perché di fatto non lo genera lei, aumentando i tassi di interesse, noi rischiamo un po' di più? Mi unisco a quello che ha detto Seminerio, il contesto all'interno del quale si sviluppa questa tornata elettorale non è favorevole a far sì che l'Italia possa affrancarsi da questo effetto contagio, e inoltre anche la BCE si trova in netta difficoltà di fronte a questo cambiamento di fronte della politica americana. Ah, a me viene in mente quella famosa battuta di Groucho Marx: Dio è morto, Marx è morto e anch'io non mi sento molto bene, nel senso che rievocava lo scenario che stiamo affrontando. Comunque, nervi saldi a tutti. Grazie a Claudia Segre, grazie a Mario Seminerio, noi ci risentiamo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di comunque di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.